del film in cui, cadendo sempre più in basso, incrocia Topolino e Bugs Bunny, che contemporaneamente stanno facendo paracadutismo e fanno finta di dargli un paracadute che si rivela però un paracadute falso. Viene salvato proprio dalla caduta, dalla donna orribile, riesce a liberarsi di lei spostando la striscia centrale della strada sulla quale la donna sta correndo, facendola andare contro il muro. La donna segue la striscia e si schianta contro il muro. Lì c'è la mitica battuta di Bob Hoskins che dice: cartoni ci cascano sempre. A un certo punto trova davvero Jessica, che gli punta una pistola contro. Sembra il momento in cui per Barnett è finita, ma in realtà, come stiamo per ascoltare, Jessica non spara, gli spara a qualcun altro. Barnett! Lo sapevo che ci lasciavo la pelle a cartoni. Attento alle spalle! Butta la pelleggia! Io ti ho salvato la vita e qualcuno non ti fidi di me. Io non mi fido di niente e di nessuno. Nemmeno dei tuoi occhi. Quella è la pistola che uccise Harry Campamaroon. È morto, l'ha tirato il grilletto. Morto? L'ho seguito fino allo studio, ma non ho fatto in tempo a fermarlo. Esatto! Se non mi fermerai mai, senza morta! Siete morti tutti e due! La voce classica di Paperino, nel lungo viaggio dentro Cartunia si sente anche la voce di Topolino. Paperino è doppiato da Vittorio Stagni, mentre Topolino è doppiato da Gaetano Varcasia.